Ma il manifesto è un documento che nasce da una serie di assemblee che sono state organizzate a partire da giugno dell'anno scorso, sotto la spinta di una serie di lotte che hanno avuto luogo soprattutto nei paesi dell'est Europa e anche al di là dei confini europei e non solo, durante i lockdown, durante la prima fase della pandemia, a partire da una serie di realtà che sono parte della Transnational Social Strike Platform, si è pensato di provare a mettere in connessione queste lotte, che sono lotte sul terreno della riproduzione sociale. Faccio solo alcuni esempi. Le infermiere che in Georgia o in Bulgaria hanno in qualche modo colto paradossalmente l'occasione della pandemia per lottare per migliorare le proprie condizioni di lavoro, per dire chiaramente che il fatto di essere donne non significa che sono dedite alla cura per natura e quindi sacrificabili oppure disponibili ad accettare dei salari da fame come avviene normalmente all'interno di contesti, anche quelli post-sovietici, in cui dopo la caduta appunto dell'Unione Sovietica i sistemi sanitari, i sistemi di welfare e servizi sono stati completamente abbattuti e completamente privatizzati anche all'interno di una serie di patti di integrazione o di avvicinamento all'integrazione con l'Unione Europea. E lotte delle migranti, penso a quelle che dalla Romania o dall'Ucraina sono state in qualche modo importate letteralmente in paesi come l'Austria a condizioni di ricatto con l'apertura temporanea di corridoi e il sequestro dei documenti per garantire le quarantene, cioè una serie di situazioni molto precise, molto dirompenti, si sono incontrate per pensare come connettersi, esattamente come poter andare al di là della propria particolarità, proprio perché al di là del particolare quello che le unisce sono condizioni patriarcali e razziste di sfruttamento. Il manifesto nasce appunto da una serie di assemblee online, naturalmente, estremamente partecipate, come ci raccontavano ieri sera durante la presentazione organizzata da non una di meno Bologna, Kalina del collettivo LeFem bulgaro e Sopo del sindacato Solidarity Network georgiano, è stato anche inaspettato. E questa sorpresa, chiamiamola così, è un po' il senso di cogliere la possibilità, evidentemente c'è una necessità, c'è un'urgenza di mettere in comunicazione in connessione le lotte, approfittando, e questo poi è il punto del manifesto, dell'8 marzo, dello sciopero femminista che si rivela un processo in corso, espansivo, anche in contesti nei quali non era ancora arrivato, nel senso era noto, ma non aveva dato ancora vita a processi di organizzazione. Il manifesto dello sciopero essenziale rovescia il senso di essenziale. Se i lavori essenziali sono stati più sfruttati e quelli pagati peggio, quelli che hanno visto l'estensione maggiore delle condizioni razziste dello sfruttamento, l'essenziale è la lotta. Poi un messaggio che è stato rilanciato anche in Italia, in Francia, i sindacati hanno convocato lo sciopero dell'8 marzo come sciopero delle essenziali. Il senso è quello di rovesciare la nostra indispensabilità, che ci condanna a condizioni di sfruttamento ancora più intense, in una lotta che appunto è essenziale, non possiamo non farla. Quali sono le prossime tappe del percorso bolognese nazionale verso l'8 marzo? Prima tappa è questa domenica alle 14:30 in Piazza dell'Unità, chiaramente nel rispetto del distanziamento, eccetera, ci sarà un'assemblea pubblica, è un'assemblea in cui vogliamo dare voce a tutta una serie di situazioni che reclamano con urgenza questa lotta, esattamente per le condizioni di vita e di lavoro in cui sono state messe, tanto più nella pandemia, cominciare a pensare insieme come organizzare l'8 marzo, che ovviamente è pensato come la tappa di un processo e non semplicemente come un momento che comincia e finisce. Ricordiamo che abbiamo organizzato a livello nazionale per 2 weekend consecutivi, l'ultimo di gennaio e poi il 6 e 7 febbraio, dei momenti molto importanti di discussione e dei tavoli tematici che sono stati un modo per ributtare nel presente il piano femminista e transfemminista contro la violenza. E l'Assemblea nazionale del 6 e l'Assemblea transfronterizza transnazionale del 7 febbraio, partecipatissima anche quella, sorprendentemente è stata una verifica anche del modo in cui lo sciopero in questi anni ci ha fatto costruire, al di là dei confini e nei contesti più diversi, un linguaggio comune che dice la battaglia femminista e transfemminista è una battaglia contro le condizioni patriarcali e razziste della società neoliberale. Tanto più urgente, questo è molto importante da dire, quanto più i recovery plan stanno ripianificando le condizioni della riproduzione sociale, e noi sappiamo molto bene, anche visti i dati dei licenziamenti, delle perdite del lavoro nell'ultimo anno e della violenza negli ultimi giorni, i femminicidi, che questa battaglia rischia di giocarsi sulla nostra pelle, e noi non siamo disponibili a questo.